qui finisce la lezione. Sei solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo, sei solo chiacchiere minuti primi, la frequenza di Radio Onda Rossa. I problemi tecnici che non mancano mai nel cercare di allestire qui tutto lo studio. Niente cuffie, niente cuffie. Ci proveremo, dai, non ti preoccupare. Adesso terminiamo la parte iniziale. L'incipit, la presentazione della trasmissione di questa sera, e poi vedremo anche di allestire le cuffie. Si inizia sempre così, eh. Allora, dicevamo, 22:54 minuti primi, le frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 della banda romana e laziale del 1977. La radio che vive grazie al sostegno di tutte e tutte voi. È da poco conclusa la campagna di radio abbonamento del 2023, ma rimangono attivi, specie in questi mesi estivi in cui appunto non si fanno iniziative, non ci siete perché ve ne andate, la radio si ascolta di meno, forse, non lo sappiamo. Però le spese ci stanno sempre, la corrente, il contatore della corrente continua a girare. E perciò il nostro invito a sostenere la radio è sempre valido, attivo, quindi 61 80 40 01, il numero del conto corrente postale da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001. Via dei Volsci 56 00185 Roma San Lollo. Questi sono gli estremi per sottoscrivere tramite il conto corrente. C'è una paginetta sul sito www.ondarossa.info dove troverete altresì su Sostieni tutte le modalità con cui potete sostenere, potete sottoscrivere per Radio Onda Rossa, non ultima quella di venirci a trovare qui in Via dei Volsci. E qui tra l'altro, ecco, si esulta. Allora, stasera, vabbè, poi lo facciamo dire agli ospiti, facciamo introdurre... Che ti ho portato a fare? Ti faccio introdurre a te. Aspetta, dobbiamo pure provare i microfoni, mo, dai, mica abbiamo. Vai, adesso ci siamo. Proviamo il microfono. E ci sta il microfono. Abbiamo Leopoldo Mastelloni. No, non, niente, no, bannato. Non Leopoldo sta nascosto di là, non mi hai fatto una sorpresa. No, no, niente Leopoldo Mastelloni. Vabbè, continuiamo a dare gli estremi della radio ondarossa@ondarossa.info, la mail per mandarci le vostre comunicazioni alla redazione della radio. 25 o'clock@ondarossa.info, 25 o'clock 25, scritto a numero, @ondarossa.info, se volete molestare il sottoscritto e la sottoscritta redazione della notte di Onda Rossa. 0649175 0, storico numero, 6 cifre dal 1977, pure quello. E dato che più o meno abbiamo risolto tutti i problemi tecnici, andiamo un po' a riassumere le puntate, la puntata precedente. La puntata precedente. Sì. 3 ore e passa. L'avevamo chiamata però con un altro nome sul podcast. Poi ognuno gli ha dato il suo nome. Sì, io gli ho dato Horror Rock, Splatter. Alla fine, no, abbiamo maratona. Perso il fantasma. Dovevamo guadagnare uno scrittore che però che si è perso per Marco strada. Roncaccia, che però Roncaccia, che letteralmente si è perso per strada. No, si è perso la macchina, lui sta smadonnando. Sì. E però abbiamo un grande acquisto stasera, di cui sono particolarmente. Però era una cosa che avevamo annunciato proprio lì in diretta, più o meno. No, forse non l'avevamo annunciato in diretta, ma subito dopo, però si capiva, insomma, che qualche cosa sarebbe nato. Anche perché è andata benissimo l'altra trasmissione. Noi abbiamo delirato per più di 3 ore. E però la gente fino alla fine ci ha seguito, incredibilmente. Ci ha telefonato, chi tornava a casa dopo una però notte fa parte di duro appunto lavoro. Dell'horror. Tra l'altro anche stasera abbiamo avuto così un, come dire, un alleggerimento della morsa del caldo che si era manifestata in questi giorni, che avrebbe reso veramente insopportabile, credo, la presenza qua in radio. Oggi sembrerebbe che qualche grado la temperatura è diminuita, però con la stessa perseveranza, pensavo proprio oggi, dei protagonisti del cinema horror, dei più che dei protagonisti, dei sì, quelli che aprono vittime, la porta della cantina dove non devono entrare. No, ma poi non solo, ma lo fanno proprio, cioè, fanno la cosa che non dovrebbe essere fatta. Quando c'è, però con perseveranza la fanno. La musica di violino, tu non devi andare da solo in cantina, si sa. E quelli ci vanno. E d'altronde poi cosa c'è di più estivo di racconti, vabbè, del terrore? Gli vogliamo dare subito la parola, dai. Insomma, vediamo. Qui abbiamo il maestro Andrea Marfori. Ciao a tutti, buona serata. Ciao. Il microfono si sente? Sì, un pochino più vicino è meglio. Poi ti alzo i volumi, ma stiamo quasi a palla. Diciamo. Bene. Okay, allora, buonasera a tutti. È vera la cosa che abbiamo detto innanzitutto? Certo, devono andare nella cantina sempre. Cioè, perché uno che non ci andrebbe mai, però dopo, quando guarda il film horror, quelli dove vanno? Nella cantina. C'è sempre una cantina e ci devono sempre andare dentro. Certamente. Da soli? Da soli, si spegne la luce. Tutte le cose che uno non farebbe mai vengono fatte nel film horror, e c'è sempre la cantina, perché in genere invece non c'è la cantina nei nostri appartamenti, c'è l'appartamento. Però visto che questo nostro ciclo di puntate si lega anche alla musica, quando scendi nella cantina tu sei per il pezzo di impatto hardcore violento oppure per il violino alla Hitchcock? No, sì, sono un po' più per il violino, magari non proprio alla Hitchcock, ma insomma più una musica di tensione che non una musica hardcore. Questo secondo il mio gusto, poi dipende dal gusto personale di chi sta filmando quella scena, insomma. Poi dipende molto dalla faccia che c'ha l'attore, perché tanti attori purtroppo passeggiano dentro le inquadrature. Uno scamarcio, ecco. In cantina da solo, tu ci metteresti violini o hardcore? Non ci metterei scamarcio. Nemmeno io. Allora Marco, ovviamente Marco De Vittorio 38 Punk, presenza ormai così collaterale a 25 o'clock alla radiazione, non solo, ma da un po' di tempo anche animatore, agitatore, cioè ci propone le cose. Vogliamo, al di là di avergli dato parola, pure introdurre un po' Andrea, e anche per così arrivare, l'altra volta ne avevamo parlato essenzialmente parlando del film Bosco 1, che sì. È il film culto di Andrea, naturalmente Bosco 1, con cui rubo le parole ad Andrea. Andrea chiude un cerchio, quello del cinema di genere. Sì, storicamente vuoi dire, come la stagione del cinema di genere italiano, ma tu che sei l'ultimo protagonista di quella stagione, ci vuoi dire che cos'era il cinema di genere italiano? L'ultimo uomo sulla Terra. L'ultimo occhi bianchi sul pianeta Terra. Esatto. Sì, era veramente un'altra cosa, perché appunto, certamente film poi horror ne sono stati fatti a profusione anche dopo, ma diciamo che lì alla fine degli anni 80 si è chiusa una stagione, la stagione del cinema in pellicola, perché comunque questi ultimi film, compreso Il Bosco, furono girati con gli ultimi di Fulci in pellicola 35 mm. Poi dopo invece, con l'inizio degli anni 90, è arrivato il video, i film sono stati fatti in ora lo chiamavano in digitale, una volta lo chiamavano semplicemente video, ed è cambiato tutto. Quindi su cassetta inizialmente i primi demo si facevano proprio su, sì. Non c'era nemmeno il formato VHS, c'erano altri formati, c'era, insomma, con queste prime telecamere. Però ecco, questo anche già il Super VHS professionali viene dopo il Super VHS, sì. È una roba che viene dopo, mi pare ma comunque tutto questo appunto è dopo. Io invece appunto, tu mi chiedevi della fine della stagione della pellicola e dell'horror italiano e del genere italiano, quindi quando il genere ancora italiano vendeva sui mercati, cioè all'epoca c'era un mercato. Il Bosco fu acquisito dalla Troma di New York, che in cassette lo rivendete in tutto il mondo, insomma, per cui e c'erano all'epoca, a parte questo esperimento del Bosco, che fu anche un esperimento produttivo innovativo per l'epoca sicuramente, anche per il fatto che ce lo siamo andati a vendere da soli, io e il gruppetto di soci con cui l'avevamo fatto, abbiamo preso le pizze 35 mm, siamo saliti sull'aereo e siamo andati alla FM di New York, poi ci siamo andati dopo per la Troma. La FM era Los Angeles, l'American Film Market, esiste ancora, era insieme al MIFED di Milano probabilmente il più importante mercato cinematografico, quando esisteva un mercato, che è una cosa che adesso non si riesce neanche a immaginare. Adesso i film vanno in streaming, è tutta un'altra cosa, ma allora no, si vendevano i pezzi, si vendevano i diritti per le cassette. Noi andammo, e io ricordo di aver caricato come bagaglio a mano le 5 pizze a 35 mm del Bosco, Evil Clutch, titolo americano, e di averlo portato alla FM, dove ci fu una proiezione sostanzialmente. Avevamo comprato uno screening e facciamo vedere il film. La Troma si fece avanti dicendo: noi lo compriamo e lo distribuiamo. Quindi c'erano varie case di produzione, in realtà di distribuzione. Distribuzione più che produzione. Di distribuzione. La produzione era già stata. Noi che mastichiamo il punk, c'è di casa come concetto, che è il do it yourself. Sì, anche se il do it yourself poi è diventato totale con appunto l'avvento del video. Quando c'era da girare in pellicola, comunque i costi erano altri, certo. Perché comunque, cioè, era necessario un investimento ora i film, ora è già alla fine degli anni 90, i film si potevano fare praticamente a costo zero, cioè nel senso, se avevi gli amici attori, se ti sapevi un po' fare con una telecamera lo facevi, ma alla fine degli anni 80 no, occorreva la pellicola che aveva un costo, lo sviluppo e stampa, era un altro approccio, proprio c'era proprio un muro introduttivo entro il quale se volevi andare nel mondo del cinema, certo, dovevi comunque trovare quel tot almeno per comprare la pellicola, cioè, ecco, insomma, questo era vero anche per gli indipendenti. Il corto nacque proprio all'epoca, proprio probabilmente sì, ancora sì. Prima, perché il corto poi adesso ha avuto un'altra, no, mi ricordo periodo pure io masticavo un pochetto all'epoca, certo. I primi esperimenti così appunto in non avendo soldi con la telecamera, in video, insomma, in video, sì. Tanto mi sembra che nel Bosco 1, se ben ricordo, ci sono due corti inseriti. Un corto inserito perché era stato girato proprio per trovare i finanziamenti per fare il film. Era stato girato un corto che si chiamava Gorisand, Sabbia Insanguinata, che di fatto è nel film, sono i racconti che fa lo scrittore, che lo scrittore racconta di quello che va in casa, poi c'è lo zombie dentro l'armadio, poi lo zombie lo ritrova sulla spiaggia, tutto questo era lo short, non si chiamava neanche short all'epoca, si chiamava cortometraggio, neanche corto, cioè il cortometraggio. Ma qui noi siamo contro gli anglismi, qui noi siamo per la difesa del congiuntivo, quindi certo, possiamo usare il cortometraggio. Certo. E questo cortometraggio fu girato in 35 mm e poi con questo riuscimmo in qualche modo a trovare i soldi che servivano per portare avanti il film, quello che poi sarà Il Bosco. Solo che appunto decidemmo di non buttare via niente, si fa come il maiale, come non il maiale. Si butta via niente. E quindi riutilizzammo il corto mettendo in sceneggiatura il fatto che questo scrittore racconta delle storie, i due. Queste storie sono i pezzi del cortometraggio. Tra l'altro mi aggancio adesso allo scrittore proprio per dire questa cosa che Marco già sa, è che recentemente è uscito il libro, il romanzo di Algernon, che è la storia, il prequel del film in cui viene raccontata la storia di Algernon e che cosa lui ha fatto e che cosa porterà poi all'inizio del film. E dietro ogni grande uomo c'è una grande donna e noi siamo felici di avere qui l'autrice che è anche la sceneggiatrice del Bosco 1. Ciao a tutti, buonasera. Parlaci un po'. Quindi, di questo tripla sorpresa, prequel, visto che essendo tu la sceneggiatrice, sulla carta Il Bosco l'hai visto nascere. Ma l'idea del prequel nasce perché, diciamo, dopo aver sentito tutte le storie del Bosco per una trentina di anni, a un certo punto bisognava esprimersi. Io come scrittrice ho deciso di esprimermi e fare il prequel del Bosco, prendendo secondo me l'autore, cioè diciamo lo scrittore, il personaggio più interessante del Bosco, cioè lo scrittore. Non mi piacciono le tue storie, ecco. Esatto. E ho pensato di dedicare a lui il prequel e spero che piaccia, spero che ci siano lettori che abbiano voglia di leggerlo. E certo, poi tra l'altro in questo prequel si spiegano alcune cose che nel film sempre per tanti anni mi hanno mandato, ma perché lui mette le mani sul sasso? Cioè c'è tutta una serie, diciamo, di cose. Diciamo che qui viene detta tutta la mitologia, c'è tutta la mitologia attorno al Bosco. Perché il film, ovviamente c'ha una tempistica che è quella, che sono i 100 minuti, non so quanto dura. No, era abbastanza breve il Bosco, durava 85 minuti, in cui anche i dialoghi, poi in un film horror o splatter, diciamo, i dialoghi hanno un loro spazio limitato, certo. E sono più di raccontare appunto le circostanze, certo, ha bisogno, certo, di un altro tipo di E poi anche di qui, media, diciamo, ci sono, diciamo, dai, per essere così culturali, diciamo che è pieno di archetipi che nel romanzo vengono svelati. Ecco. Va bene. Spero pure quella del paiuolo. Pure quella del paiolo pieno di vermi. Ha una sua collocazione. Ecco. Perfetto. Ma poi il libro secondo me è molto bello perché approfondisce, cioè è un po' una discesa all'inferno, per cui nel libro certe cose che nel film a volte hanno un aspetto ironico, quantomeno grottesco, nel libro è riuscita Paola ad essere molto più incisiva, ecco, per cui secondo me sì, è un buon sia per i fans che hanno visto il film, sia che per chi non ha ancora visto il film è un buon viatico, No, ma poi soprattutto, visto che Paola comunque è una che prima di partorire un libro ci fa un lavoro dietro, cioè nel senso, qui ci avete fermentato 30 anni prima di fare questo libro, e viviamo in un paese in cui dalle recenti statistiche è quasi più la gente che scrive un libro che la gente che lo legge. Allora il discorso è, ragazzi, se volete scrivere un libro, magari prima imparate a leggere e leggete da chi la scrittura la pratica come professione, anche nella sceneggiatura, che può sembrare non avvincente come la stesura di un romanzo, però è fondamentale, è un'ottima palestra. Detto questo, voi due vi aspettavate di trovarvi, un cult tra le mani, nel senso, per me per esempio il Bosco 1 era un rituale dopo gli esami all'università. Io so che una ragazza ha intrapreso la carriera di lap dancer dopo aver visto il Bosco, cioè praticamente se Paolo di Tarso invece di incontrare Dio avesse visto il Bosco 1, il mondo oggi sarebbe diverso, certo, sarebbe illuminato sulla via di Damasco col Bosco 1. Sì, certo, ma questa ve lo aspettavate che diventasse un cult? No, guarda, nel senso che il film è molto cresciuto, volendo parlare seriamente, è molto cresciuto da solo, cioè nel senso che ostracizzato al massimo all'inizio, hanno cercato di seppellirlo in tutti i modi, lui è sempre riuscito a resuscitare un po' da zombie da solo, e soprattutto si è creato un suo seguito in veramente underground. Cioè, nel senso, con la Eagle lo fece uscire come cassette, andò bene l'uscita in un video, nei noleggi ancora, e da lì cominciarono a farne delle copie pirata, e questa è stata la sua grande fortuna, perché quando è stato ritirato dopo 6 mesi, dopo essere stato anche il campione di incassi in quei 6 mesi, poi dopo lì arrivavano altri titoli, no? Quindi la cassetta è scomparsa, la cassetta della Eagle, però qualcuno ne aveva fatto delle copie VHS. Coralina Cataldi da Sony, che dice che se potesse le comprerebbe tutte. Sì, una volta mi sono arrivate voci qualche anno fa che si è un po' pacificata con il film, non so se sia vero, ma qualcuno che l'ha incontrata a Cannes però io e te sappiamo cosa disse, diciamolo agli ascoltatori. Se no, potesse comprare. Sì, che lei vorrebbe comprare. Una volta disse che voleva comprare ancora all'epoca del VHS tutte le cassette per poterle bruciare. ma poi sono gli anni, sono passati per tutti, per il film, per me, ma pure per lei. Per cui probabilmente ha poi anche lei si è pacificata con il film, anche perché le cose nel tempo cambiano. E questa è anche la cosa, ciò che prima era brutto poi diventa bello, quello che è bello diventa brutto, cioè tutto viene macinato dalle cose e cambiato, e delle cose però diventano di culto, in qualche modo segnano l'immaginario collettivo, com'è che li chiamano, seminali. Seminali, sì, ecco, sicuramente il Bosco 1, Evil Clutch, è stato un film seminale, ecco. Anche topico, per certi pure topico. Allora, siccome siamo una radio e mettiamo le musichette noi, almeno in questo spazio, io metterei la musichetta, sì, la prima la sceglie no, io l'ospite. Direi mettere la musichetta Evil Church. a sto punto. Evil Clutch. Scusa. E qui non parliamo inglese, quindi diciamo il Bosco 1. Il Bosco 1. E andiamo con la colonna di Adriano Maria Vitali, che va ricordato. Thank you. 23 e 22 minuti primi torniamo in onda. Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza con Andrea Marfori e Marco devi 38. E ci siamo. Fischia tutto, mi sa che dobbiamo abbassare un po' il livello. Fischia il vento. Sì, però non urla la bufera, ma semplicemente rientra il lazzo. No, urla la Meloni. Urla la Meloni. Benissimo. Eravamo arrivati a così a raccontare un po'. Sì, poi a microfoni spenti come al solito qui si sovrappongono le curiosità. Però ce n'è una che... No, io ce l'aspetta. Ah, poi facciamo... ce l'hai te la curiosità? Perché stavamo parlando, no, più che altro era per, pure per concludere un po' il ragionamento di prima su la, l'autoproduzione, la distribuzione, il low cost. L'ostracismo. Così proprio, tanto una domanda che ti avranno fatto milioni di volte e magari si trova pure... Quanto costò in realtà realizzare il Bosco 1? Allora, in termini di lire, parliamo di lire a fronte. Lire, certo. Allora, un conto sono stati i costi vivi e un conto è stato quello che è stato messo come partecipazione in termini di lavoro. Allora, l'artigianato, appunto. Sì, l'artigianato, il lavoro di chi ha scritto, di chi ha diretto, ma anche di chi ha interpretato, che secondo quello che erano i contratti dell'epoca sarebbero dovuti essere dei punti sul film, ma... che poi nessuno ha mai visto niente ovviamente, e quindi questa cifra è anche difficile da conteggiare in termini di cash, in termini di contanti, sì, In termini di contanti il film costò circa 250 milioni, che era una cifra estremamente contenuta per l'epoca. Cioè, oggi 250 milioni sarebbero circa 120-130 mila euro, e già con 120-130 mila euro fai un film neanche low budget, medio budget, insomma, oggi. Proprio per il discorso che facevamo prima riguardo proprio i costi della pellicola, essenzialmente, che erano costosi. La pellicola, perché costava tantissimo. Sono 18 fotogrammi, quanti sono al secondo? No, 24. 24 fotogrammi al secondo. E quindi il problema era anche che si girava diversamente, perché tu dovevi ovviamente economizzare, cioè mentre adesso con il video più o meno quanto giri un po', quanto te pare, tagli, ricuci, rimetti, lì ogni volta che tagli e cuci lì bisognava proprio stare attenti, giravi uno, due ciak e solo, proprio era un modo diverso. Poi non si vedeva, non è che c'erano i monitor, capiamoci, perché anche sta cosa dei c'era la Black Maria una volta, cioè la cabina quella di con i nostri soldi sempre per il low cost. No, forse sì, c'erano quei film, mi ricordo una volta ero stato sul set de Bertolucci quando girava al centro sperimentale L'Ultimo Imperatore, girava in pellicola ma c'aveva la cabina di regia con la telecamerina collegata al visore della cinepresa, non telecamera, e lui poteva vedere quello che veniva girato, ma noi no, cioè nel senso che vedeva l'occhio dentro la cinepresa, non telecamera, lo teneva solo l'occhio nella macchina da presa, l'operatore di camera, e basta. Il regista spiegava l'inquadratura e poi diceva hai fatto così, come è venuto, com'era, traballava, era sfocata, no, ma forse andava bene, passiamo alla prossima. E quindi non potevi farne tante proprio per questi costi. Questa è una cosa che adesso è abbastanza incomprensibile, cioè nel senso io stesso faccio fatica. Questa nel mondo del cinema, ma può valere anche nel mondo però della musica. Però un pochino a me manca la magia del 35, Sì, beh, era bello, però era un po' altro come il vinile del cinema. È un po' come il vinile del cinema, sì, è tutto un altro sapore. Sì, però vabbè, oggi è tutta un'altra roba come si fa i film, e infatti come si fanno i film, e infatti lo si vede anche dallo stile delle riprese. Per certi aspetti si è impoverito ed è diventato anche troppo sporco, troppo. Ma quella scuola quanto ha valso poi in termini proprio di mestiere, di saper fare? Beh, tantissimo. È stata fondamentale anche poi per lavorare con il telecamera e con il digitale. Perché comunque io personalmente ho imparato Io vengo come formazione ho fatto l'università, mi sono laureato in filosofia e poi ho fatto il centro sperimentale di cinematografia, regia con specializzazione in montaggio. E dalle prime cose, i primi film in 35, quello e quelli che sono seguiti sempre tra l'87 e il 91, io ho anche imparato personalmente a seguire tutte le fasi della lavorazione, cosa fondamentale poi nel digitale, perché nel digitale ho potuto imparare ancora all'epoca, ma e tutt'oggi uno continua ad imparare ad usare il computer, usare la telecamera, a fare il montaggio digitale, il missaggio digitale, la color correction, ma tutte cose che secondo me un artigiano deve saper fare. Poi se lavora in gruppo con altre persone ovviamente delegherà a qualcun altro specificatamente alcune fasi, però secondo me oggi e con il digitale è possibile, un filmmaker deve saper fare tutto, e il tutto significa che deve anche saper scrivere, perché il film non comincia con il telefonino e giro qualcosa, perché siccome tutti hanno il telefonino che gira in 4K, allora penso, vabbè, giro 4K è come se girassi su un set di un film. Rimane un mestiere comunque, quello del... Secondo me rimane un mestiere, un artigianato, e adesso non voglio fare il vecchio nostalgico, però anche un artigianato che si va molto perdendo e che difficilmente si riesce a aggiornare al digitale. È un po' quello che vale in tutto. Diciamo extra settoriale, vale nella musica, vale nella radio, cioè la tecnologia aiuta moltissimo, però allo stesso tempo appiattisce moltissimo. Se uno fa, come si dice, il film o la musica di default, adesso non per certo usare l'inglese, però qui il termine è di base, insomma, con il settaggio predefinito del software, perché il software ha un settaggio predefinito, se tu usi solo quello tutto risulterà simile. Ed è anche il problema, secondo me, fondamentale, per voler fare un discorso molto attuale, del fatto che adesso dicono, ma secondo me è soltanto propaganda, che la AI, l'intelligenza artificiale, certo, può fare tutto, quindi può scrivere. Beh, gli articoli di giornali sì, sono d'accordo, quelli li posso. Ah, per come sta la stampa oggi, sì. Sì, quelli sì. Soprattutto quella italiana. Ma penso direi di tutto il mondo, però su quello sì, i giornalisti possono sicuramente essere sostituiti dall'intelligenza artificiale. Con la lodevole eccezione di Taxi Drivers. Naturalmente. Su questo non c'è dubbio. Però la AI fa un programma, imposta uno schema di default, che evidentemente è piatto, cioè nel senso che poi è sempre quello, infatti, e questo purtroppo succede ovviamente con la AI, in cui non c'è un operatore umano, ma purtroppo anche nel caso di molti operatori umani che usano i software appunto per come sono impostati e non facendoci un po' di ricerca dentro, quindi le immagini tendono a essere tutte uguali, tutte colorate allo stesso modo, la color correction particolarmente è tremendamente standardizzata, e questa standardizzazione per certuni può significare la possibilità di accesso a chiunque, è facile, è comodo, lo possono fare tutti. Sì, è vero, lo diceva già Andy Warhol negli anni 60, no? Quando girava con le Polaroid, voi ve lo ricorderete forse, l'ultima fase artistica di Andy Warhol era lui che girava con la Polaroid, faceva una foto della Polaroid, la tirava fuori e ci scriveva sopra Andy Warhol senza fare nessuna decorazione. E diceva lo può fare chiunque, dava la Polaroid a un altro e si faceva fotografare lui. È vero, lo può fare chiunque, quindi... Tanto non hanno inventato niente questi dell'AI, cioè voglio dire, tornino a studiare un po' di Andy Warhol e ci troveranno già tutto dentro. Ma a parte questo, il problema anche di quel tipo di sperimentazione era che poi alla fine non era innovativa, cioè era innovativo l'approccio ma non il risultato. Il risultato era in tanti casi piatto. Secondo me ci vuole l'umano. E vi invito a... Sì, no, non so, ma facendo dei gesti, voi mettiamo la musichetta? Mettiamo un po' di musichetta. E che musichetta mettiamo? Che so, direi che difficilissimo, perché difficilissimo. No, dimmi, ci metto un po' a cercare, a trovare. Visto che abbiamo saccheggiato la volta scorsa Ritorno ai morti viventi 1 di Brian Yuzna, questa volta direi che saccheggiamo di sfuggita Ritorno ai morti viventi parte seconda con The Monster Mash nella versione dei Misfits. E allora, incredibilmente l'abbiamo trovata subito, quindi Misfits a Radio Onda Rossa 25 o'clock, dai. Sei minuti Radio Onda Rossa 25 o'clock e così anche fuori onda continuiamo ad affrontare l'argomento, ed è sicuramente vasto ancora tutto, anche perché lo stiamo vivendo in realtà, benché siano passati 30 anni. Appunto, citavi l'esempio dell'intelligenza artificiale e di come le tecnologie in realtà siano entrati proprio nel quotidiano, nei mestieri, abbiano tolto tutta una serie di intermediazioni che esistevano. Non è detto che poi la qualità sia, è un discorso, certo, il discorso è ampio e non facile da esaurire, ecco. No, non si può ovviamente esaurire, sono poi opinioni, spunti, ecco, più che altro. Però certo che si fa a volte un po' fatica a trovare, poi è personale, per cui io non voglio fare un discorso, a me non piace fare discorsi di apologetici. Fischia sì, qualcosa. Allora passiamo. In cui si insegnano delle cose, ognuno deve sperimentare, sperimenta e segue la sua via di sperimentazione. Il problema è che con dei mezzi che hanno standardizzate alcune opzioni principali, ecco, diciamo, le chiamavamo prima di default, e poi si spinga, cioè, a usare soltanto quelle, è chiaro che anche il prodotto viene facilmente poi tutto uguale. Allora, è un prodotto da YouTube, da TikTok. Ecco, la vexata questio allora è: c'hai qualcosa da dire? Sostanzialmente quello. Ma io direi anche non solo se c'hai qualcosa da dire, ma hai la possibilità di sbagliare. Allora, ho un riferimento preciso, adesso faccio la citazione. Orson Welles diceva, mi dicono che lui era... il discorso era in relazione al linguaggio cinematografico cinematografico del suo tempo e al fatto che lui avesse usato molto i grandangoli in Citizen Kane, creando delle immagini tra virgolette sbagliate secondo la grammatica vigente all'epoca di Hollywood dell'epoca, e lui diceva va bene anche l'uso dei piani sequenza o l'uso dei piani, insomma tutte cose che non si facevano. Allora lui diceva: ma io se non mi permettete di sbagliare non potrò mai inventare qualcosa di nuovo, quindi non potrò mai far progredire il linguaggio in questo caso. E questa osservazione mi sembra particolarmente interessante e da meditare, cioè nel senso, se tu crei dei mezzi con cui non puoi sbagliare, perché sicuramente il mezzo ti dice, ti esce il LED che dice qui stai facendo un errore, qui stai facendo un errore secondo quali regole, secondo quali schemi. Banalmente il correttore, lo dico alla scrittrice, il correttore di Word. Esatto. Che ti mette la maiuscola. E se io voglio mettere una minuscola, là devo stare lì a ripassare 50 certo. volte. E il correttore di Word ancora è facile da correggere, ma se tu fai un film col telefonino, il telefonino ti fa la fotografia come vuole lui, tu non puoi regolare, ma dici: ma io lo voglio più scuro, voglio che lui sia in ombra e sia in luce lei. No, quello ti fa la fotografia. Voglio media. Che l'immagine sia brutta là. O voglio che l'immagine sia brutta. No, lui ti toglie la vibrazione. E poi dopo l'AI ti monta anche. Adesso si può anche far montare il filmato. E monta secondo degli standard che sono quelli dell'algoritmo di chi ha scritto quel programma. E che può anche averlo scritto bene, può anche aver scritto un buon algoritmo, ma è l'algoritmo del signor Google. E chi se ne frega del signor Google, voglio dire, o del suo programmatore. Cioè, non è interessante, è una versione, è uno schema, è uno standard. Che va benissimo che ci sia, ma il problema è se c'è solo quello. C'è una battaglia, insomma, che bisogna fare anche in questo campo. In qualche maniera non bisogna mai smettere di lottare anche su queste cose. In fondo il Bosco 1 è anche quello, cioè un simbolo di pervicacia. Certo, è un simbolo di lotta cinematografica. Sì. In qualche modo, io lo dico come una battuta, ma sicuramente è stato un film fuori dagli schemi a suo tempo e ha continuato e continua a esserlo, non fosse altro provato dal fatto che continuano a esserci detrattori ed estimatori, cioè non cultori, cioè cultori, gente ma in pellegrinaggio, mi dicono. Sì, hanno fatto anche i pellegrinaggi sui luoghi sulla che ne parlavamo prima. Ma il punto è che è comunque vivo, cioè è vivo il fatto che in ogni caso è un io l'ho definito qualche volta in un'intervista un film non ortodosso, cioè è fuori dall'ortodossia, non è omologato e non è omologabile, perché a mio parere non è omologata e non è omologabile la carriera di un artigiano del cinema, insomma non deve, non dovrebbe esserlo. Poi questo secondo me va anche al di là del cinema, io non voglio, ripeto, insegnare niente a nessuno, però questo è una cosa che riguarda la vita tutta, insomma, no? Cioè, siamo tutti un po' il Bosco. Ne parlavamo l'altra volta con Marco, con il fantasma di questa cosa, proprio a proposito dello splatter e del punk. Facevamo questo accostamento, no? Sì. Se ti ricordi. Lo splatter sta all'horror come il punk sta al rock, cioè è un errore, è un aborto che ti viene a ricordare ciò che dovevi essere e che invece a furia di diventare mainstream hai perso, quello spirito eversivo, quella carica libertaria e liberatoria che l'horror dovrebbe avere. Certo. E lo splatter glielo ripropone con violenza, anzi entra a gamba tesa nel, visto che ci siamo, io manderei il secondo pezzo da sì. Bad Taste. E, qual era? Di aiutami, essimi di aiuto. Nel piano spirito do it yourself, io avevo preparato un brano che e ci siamo persi, non ci hai messo, e mettiamo appunto Tito e Tarantula. Che cos'è? Tratto dal film Dal tramonto all'alba, che è una produzione curata da Quentin Tarantino, che non è un film di Quentin Tarantino, di Rodriguez, che però si lega tutto un discorso legato al cinema di genere, perché Fulci, come tanti altri, muoiono dimenticati, tranne Argento, forse Mario Bava, che hanno una fama, godono di fama in carriera, tutti gli altri sono un po' dimenticati, finché Tarantino non vince il Festival a Venezia, gli chiede: ma lei a chi si ispira? Dice: beh, Fulci, Bava, Freda, Margheriti, Massaccesi, ovvio. E hanno sdoganato tutto il B-movie appunto degli anni 80 e anche anni 70, perché poi c'è Fernando Di Leo, che è molto amato da Tarantino. E sì, bene che abbia fatto, che questo sia avvenuto. Poi dopo non so, perché a volte le cose di Tarantino sono belle, altre volte sono un po' urtanti, a mio parere, però è un gusto personale, per cui non... Sì, no, era per dire quanto comunque all'estero quell'artigianato del cinema non ha è fatto stato, scuola. Non è stato fatto dimenticato, anzi chi capisce di cinema, insomma, proprio lì andava a rubacchiare, se vuoi, era anche così, tranquillamente... Quando Fulci morì ed ebbe la pessima idea di morire lo stesso giorno di Kieslowski, non me ne voglia il mio professore, ma per me era preferibile farmi prendere a pugni con un ferro da stiro caldo che vedermi il decalogo. Sì, no, l'ho dovuto vedere per forza, tra l'altro, pure obbligatoriamente. Mentre in Italia tutti piangevano lacrime di coccodrillo con Kieslowski, perché ve sfido, chiede quelli che ha pianto che si è visto sul serio il decalogo, perché se te lo sei visto sul serio non lo piangi, Kieslowski. No, io non l'ho visto, ma vivi in uno stato di grazia per me. In Giappone gli dedicavano a Fulci due sale cinematografiche, il Werewolf Circuit, o Circuito del Lupo Mannaro, a Londra, per una settimana diede a rotazione tutti i suoi film, quindi, cioè, cominciamo a tenere da conto il tesoro che abbiamo a casa. Quel famoso cerchio che tu chiudi. Certo, sì. No, beh, io poi lo chiudo, insomma, nel senso che questo è un po' poi, questa è una cosa personale, però cioè, io poi ho fatto anche altre cose dopo, continuo a farne. Prima di passare ad altro, ma l'idea di far parlare Coralina Cataldi come Dan Peterson, chi ce l'ha avuta? Allora, no, quell'idea non è un'idea mia, qui devo ribadirlo, perché quell'idea, quella cosa esiste farla soltanto, parlare. Sì, ma esiste soltanto nel doppiaggio italiano, perché nell'origine il film è stato girato in inglese e nell'originale lei parla, è madrelingua. Insomma, e chi la doppia, Coralina? L'ha doppiata una doppiatrice, aspetta, non Reggiani, come si chiama? Greganti, Roberta Greganti. Brava Greganti, brava. E quell'idea, e siccome il doppiaggio non l'ho curato io, lo curò la Eagle, quindi quell'idea è nata completamente in sala doppiaggio e io non ne ho né la responsabilità negativa, cioè non è una cazzata che ho fatto io, né è un merito mio, perché non sono stato io a trovare quella genialata. Indipendentemente dalla tua volontà. Non ti voglio appropriare di me. Non mi voglio appropriare della ipotetica cazzata né dell'ipotetica genialata. Non è stata una cosa mia. E infatti devo dire che quando l'anno scorso ha pubblicato la copia restaurata in 4K che abbiamo restaurato dalla mia pellicola personale 35 mm, una delle poche ancora esistenti, è stato fatto con la colonna originale in inglese e la colonna in italiano, lo spettatore può scegliere. Guardandolo nell'originale inglese con i sottotitoli in italiano fa anche un effetto diverso, cioè nel senso che l'effetto grottesco, talvolta anche comico, del dovuto principalmente all'accento che c'è nella versione italiana, nell'inglese non c'è. Quindi il film è più, tra virgolette, serio nella sua versione originale che non nella versione doppiata. Però ti vado a prendere dell'acqua, lo dice ugualmente, vado a prendere dell'acqua alla fonte. Sì, lo dice, no, ma non lo dice con quell'accento. No, lasciamo perdere i dialoghi, la scrittura. Io qui parlavo esclusivamente dell'accento, insomma, di questo fatto. La parlata alla Dan Peterson, esatto. Per me è il numero uno. Sì, per tanti è diventato proprio un tratto del film. È un'altra di quelle cose misteriose, perché non l'ho voluta io e per certi aspetti ha fatto anche la fortuna del film in Italia, certo. Per altri aspetti invece lo ha fatto declinare, dice no, è una parodia, invece il film non è una parodia, sì. È un film grottesco, ma non è mai una parodia, non vuole essere una parodia, né è una parodia involontaria, cioè tutte le cose stanno lì perché devono esserci. Ed è una cosa che all'epoca, soprattutto in ambito italiano, era poco comprensibile. Cioè, perché gli italiani facevano o le parodie, cioè la commedia, gli italiani erano bravi a fare la commedia, oppure il film serio, il film d'autore. Una cosa via di mezzo era molto più anglosassone come idea, insomma. Via di mezzo perché stava in mezzo, non perché fosse una via di mezzo. In più, poi con questa trovata del doppiaggio la cosa si è ancora più complicata, ma va bene così perché è andata per strade sue. Do it yourself. Allora noi ricominciamo con Titus e Tarantula, perché siamo una commissione di musichette e le musichette le dobbiamo far sentire dal momento che ci abbiamo parlato sopra da capo. out to find her gone. And a note says only after dark. Eccoci in onda, eccoci, già di sottofondo abbiamo finalmente recuperato. No, questa valeva la pena di spenderci due parole, perché è tratto dal film Bad Taste. Parlavamo di splatter, di liberazione attraverso l'immagine, la trasformazione del corpo, la distruzione del mezzo cinematografico. E questo film è uno dei fuochi d'artificio finali dell'epopea dello splatter, che parte in realtà, mi sembra, nel 59 con Blood Feast di Lewis, questo figlio irrequieto del genere horror che già si era imburghesito attraverso la Universal, non tanto la Hammer, ma comunque tutta la produzione hollywoodiana comincia a dare calci, testate, come il matto che era. E la parabola raggiunge la fine negli anni 90, dove poi purtroppo cominciano a iniziare le produzioni in serie per famiglie. Freddy Krueger non è più l'uomo sotto il letto che spaventa i bambini, ma diventa un pupazzo che trovi nei pacchetti di McDonald's. Si comincia a usare il politically correct, per esempio il Non aprite quella porta, il remake tremendo con tutte le parti politicamente scorrette tolte. Ecco, questo film invece, Bad Taste, è il botto finale di un genere dignitosissimo. Soprattutto vale la pena dirlo perché il regista è conosciutissimo per altri film. Il Signore degli Anelli, l'Hobbit, lui è Peter Jackson. E qui nei credits finali la produzione del film è accreditata a Mom and Dad, e le musiche pure sono molto caserecce. Questa io la considero una specie di plagio, poi magari sbaglio, l'autrice mi scuserà se non è così, però di una musichetta di un videogioco che andava molto di moda negli anni 80, Commando per il Commodore, e accompagna la scena del massacro finale, dove questi ragazzi, che sono i fanatici paramilitari, sterminano una colonia di alieni a forma di culo che sono lì sulla Terra per trasformare gli esseri umani in hamburger. E quindi Bad Taste, The Boys Attack. We'll be right back. mezzanotte, hai visto? Siamo arrivati proprio 7 Tempus secondi. Fugit. Vedi quando ci si diverte. Qui come al solito si parlava prima, a sto punto condividiamo, perché Bad Taste, il film che abbiamo appena discusso, io l'ho visto per la prima volta al Fanta Festival. Parlavamo invece della volta in cui il Bosco 1 fu presentato al Fanta Festival con un piccolo parapiglia. Il cinema è fatto anche di aneddoti, quindi. Certo. Il Bosco fu presentato nel 1988 al Fanta Festival al Cinema Capranica. Uno degli ultimi. Credo una delle ultime volte in cui il Fanta Festival fu al Cinema Capranica. La sala era gremita, era il tempo in cui la gente faceva tifo al cinema e urlava, insomma era molto tumultuosa la proiezione, e ci fu la protagonista, la Corallina Cataldi Tassoni, che alla fine rimase così impressionata da queste urla, da questo tumulto, che fuggì dal cinema e fu necessario rincorrerla per tranquillizzarla, che niente di male, che non sarebbe stata aggredita da questo pubblico e sacrificata come qualcuno urlava. Però ecco, questo modo di partecipare alle proiezioni cinematografiche era una cosa totalmente inedita per l'epoca, cioè era allora. Sembrava un po' un concerto, sì, la gente. Una partita di calcio, insomma. O una partita di calcio, certo, mentre invece c'era più al cinema fino a quegli anni lì, si era andati molto più in maniera reverenziale nei confronti dell'autore, no? Ma invece il cinema di genere si prestava anche a essere, anche perché era quello poi delle sale d'essai dove si fumava dentro, no? C'era anche questo cinema di periferia, ma al di là del Fanta Festival, però esatto, che era comunque una sala importante del centro di Roma, no? Sì, quella era il Parlamento, certo. Insomma. Sì, no, quella era una sala molto istituzionale e bella, è una bella sala. Che però ha ospitato parecchie risse, pure quella col Fest. Sì. mi raccontavi tu di quella con Al Fest, sì. Dove si arrivò direttamente alle mani. E invece no, al Bar Perini. No, ci fu anche un compagno della radio che all'epoca sì, durante la fine della proiezione Arancia Meccanica, in cui c'erano dei nazistelli, insomma, gemelli da Barduina, storie vecchie. Sempre Capranica, però. Sempre guarda, Capranica. Pure il Barberini, quando Jerry Calà venne a presentare Keegan Park al Fanta Festival, bisognò accompagnarlo fuori a metà del primo tempo a luci spente, perché c'era gente con gli accendini che lo cercava in sala per menargli. Io volevo menargli. Va bene, però io direi di passiamo al dopo Bosco 1. Cronologicamente, il trentenne Andrea Marfori produce più o meno, no, avevi 30 anni all'epoca, credo. Sì, più o meno, circa, no, qualcosa di meno. Sì, circa. Comunque, insomma, quella generazione lì produce, che inizialmente, appunto, vive poi dopo, diciamo, inizialmente già questo. Accoglienza, insomma, così da B-movies. Sì, no, ma in Italia, anche perché bisogna ricordare che all'epoca fare un film horror era, soprattutto se questo era, se l'autore era un giovane uscito dal centro sperimentale, quindi ci si attendeva una produzione d'autore nel senso classico del termine. Pallosa. Cioè pallosa, esatto, mettiamola così. E quindi fare una cosa invece diversa, un horror, era un po' come fare un porno. Cioè c'era proprio questa idea, l'horror e il porno erano assimilati, come se fossero più... O assimilabili. O assimilabili in qualche modo, no? Cioè una cosa proprio non accettabile, non era accettabile. E questo, cioè, ha avuto anche riflessi poi in ambito di carriera, di lavoro, insomma, perché, cioè, mentre tu facevi il filmetto d'autore, poi dopo ti trovavano, cioè c'era il convegno, la conferenza, esatto. Diventavi intellettuale, oppure ti poi finivi in Rai, molti colleghi dell'epoca della mia generazione sono finiti in Rai, no? Per me invece io poi ho avuto una storia completamente diversa, proprio perché anche ho trovato dell'ostracismo dovuto proprio al Bosco, insomma, cioè nel senso il Bosco era veramente una cosa scandalosa. Non era il primo passo da farsi, insomma, se volevi. È un po' come se fai i punk politicizzato, ne so qualcosa. sì, ecco, esatto. Cioè, c'era anche proprio una dimensione politica. Io adesso non voglio fare un discorso politico, certo. Però c'era. Comunque, c'era qui lo puoi fare. No, vabbè, ma di quello fattuale, cioè così accadeva, ecco, questo è il racconto della storia. Sì, tutto sì, no, così accadeva, e quindi poi dopo io ho fatto cose diverse, ho fatto sempre all'epoca altri due film che appunto prima parlavamo, sono riusciti adesso, sono stati anche questi riscoperti adesso e pubblicati in DVD da Oblivion, che sono Perduta con Luca Astel e Lidia Broccolino e Il ritmo del silenzio, che aveva invece attori americani ed era una coproduzione fatta con l'America, ma che anche all'epoca, essendo anche quelli dei film di genere, anche se non degli splatter, perché lì ci fu proprio una richiesta precisa di non esagerare con lo splatter, quindi uno è un noir, l'altro è un melò. E che vennero a seguito del Bosco, poi dopo però un po' perché era finita l'epoca del 35 mm con gli anni 90 e cambiava un po' tutto, ma ci sono stati veramente degli anni di oscuramento, cioè nel senso che non era possibile trovare da fare, cioè nel senso in televisione non c'era spazio, no, ma questi l'horror non è, insomma, cioè adesso no. Adesso. Vabbè, pure perché si sono moltiplicate le televisioni. All'epoca, tutto sommato, era proprio il periodo in cui emergeva una persona che. Ma adesso anche perché l'oro si è normalizzato. Ma l'oro si è normalizzato, e questo che voglio dire. Adesso, per qualunque. Anche la scuola di cinema, non so, se ti fai il saggio di diploma, cioè, fai l'horror, il cortometraggio. Ci stanno proprio delle televisioni tematiche o quasi. Che fanno i corti, gli horror, sì. Però è diventata una cosa proprio di routine e assolutamente accettata, ma anche nei video su YouTube, insomma, no? Cioè, tutti fanno un po' come sono. Anche il porno è stato accettato, però, cioè il porno è stato assolutamente normalizzato. Scusa. Un titolo per tutti, Le notti erotiche dei morti viventi. Poi hanno fatto anche Le notti erotiche dei morti viventi. Ma prima, cioè, che era? Massaccesi o Gio D'Amato? Mi sembra Gio D'Amato o Massaccesi che abbia fatto le. No, o Andrea Bianchi. No, Andrea Bianchi e Zombie Horror. Può essere, sì. Adesso mi confondo. Credo che sia proprio Massaccesi / Gio D'Amato, Le notti erotiche dei morti viventi, che tra l'altro. Cioè, tolta quella mezz'ora, 20 minuti, mezz'ora al massimo di scene hard, comunque è un film che potrebbe essere un normalissimo film horror, magari B-movie di quel periodo. Certo. Poi gli attori provano anche a recitare, ci sono degli effetti speciali, dei costumi, c'è una storia. C'è una storia, poi dopo si perde, ma si perde non in quel film, dico, si perde nel tempo a seguire. Però quello che oggi è assolutamente normale, questo ci tengo a sottolineare, a quell'epoca non lo era, e oggi sono normali atteggiamenti molto più violenti che un tempo non erano, cioè questo non è, io non lo vedo né come un bene né come un male, lo registro come un fatto semplicemente, e quindi tornando alla domanda che mi faceva lui, a quello che io ho fatto dopo questi film con l'inizio degli anni 90, io per un periodo sono stato in America, quindi proprio sono stato completamente fuori, e poi dopo sono continuando comunque a lavorare nel cinema, insomma. Continuando a lavorare nel cinema io ho fatto un film con Timothy Leary, che forse voi sapete chi è, forse sì, no. Accidenti. Tim Leary, praticamente l'apologeta della psichedelia. Esatto, il guru dell'LSD, eccetera. Quindi certo, casco abbastanza bene, sì. E questo film è Energy. La prossima puntata sarà solamente di musiche lisergiche, quindi bello. È interessante. E poi dopo ho fatto in Italia, ho fatto delle cose in teatro. Poi dopo ho fatto della televisione, perché questo non tutti lo sanno, ma io ho fatto Un Posto al Sole, quindi sono stato un regista di Un Posto al Sole, uno dei registi di Un Posto al Sole. Anche perché è una produzione lunga 30 e... Non è vecchia come Il Bosco, ma quasi. Ci siamo quasi, sicuro lì nei primi anni 90. Però Sentieri la frega. Ma Sentieri non è italiano. Sì, credo. Produzioni lunghe. Sì, credo che come soap opera italiana sia la più longeva, penso. Sì, sicuro. Se la fanno ancora, la fanno ancora. Sì. Ho dei colleghi di lavoro che ci lavorano. No, che raccontano. Mi raccontano che la vedono. Ah, ti raccontano che la riescono a vederla, fantastico. Occorre un grande impegno. E quindi queste sono le cose che ho fatto, fino a che a un certo punto attorno al 2014-15 ho ripreso a fare i film, perché c'è stata una new wave dello splatter. La passione di un tempo. E la passione di un tempo è ritornata a produrre delle cose, per cui ho fatto il famoso Soviet Zombie Invasion. Georgina Spelvin. Il Georgina Spelvin, che è un cortometraggio invece. E poi l'ultimo film che ho fatto, che quello su Question Rule. Quest of Fear, che è stato presentato al Fanta Festival nel 18. E al Drop Festival anche. Sì, al Drop Festival a Mosca. Non ho mai, io parlavo come festival italiano, insomma. Sì, ha girato, insomma. Sì, ha girato, ma sta anche su Amazon. Per cui perché è distribuito da una distribuzione canadese che si chiama Dark Side Releasing, che distribuisce anche altre cose mie, e sta su Amazon anche, ha un certo gradimento su Amazon, considerando, cosa fondamentale, che è un film, questo non so se lo sapete, girato in russo. Non è girato in inglese, non è girato in italiano, è girato in russo. Io, avendo la copia stampa, lo so. Tu hai la copia stampa? Sì, te l'ho recensito. No, credevo che l'avessi recensito avendolo visto a Fanta Festival. Hai la copia stampa, ecco. E quindi credevo che tu l'avessi visto alla proiezione. E quindi è anche un film girato in russo, tra l'altro in questo momento appunto anche. Ma c'è l'edizione italiana comunque, per chi volesse andarsene a cercare. No, non c'è l'edizione italiana. Sottotitoli, qualcosa del genere? No, io c'erano forse delle copie stampa, non so se la tua aveva i sottotitoli, sì. Allora quella era una copia con i sottotitoli in italiano, ma non è mai uscita, perché è anche su Amazon, sta su Amazon America, non su Amazon Europa, quindi ha i sottotitoli in inglese, ma non i sottotitoli in italiano. Però, stiamo cercando e stiamo pensando di fare un'edizione DVD italiana con non doppiato, perché sarebbe troppo costoso fare il doppiaggio, ma sottotitolando in italiano. Due parole sulla colonna sonora, visto che siamo in radio, di quel film. Il gruppo di apertura. Il gruppo di apertura è quel gruppo russo di metal, dici, sì. quel pezzo lì, adesso guarda, non mi ricordo nemmeno il nome, sinceramente. Io non saprei pronunciarlo. Però sì, ecco, quello, non saprei pronunciarlo neanch'io, quello, la colonna sonora comprende dei brani hardcore metal piuttosto duri, più delle cose praticamente dei remix con delle stratificazioni di suoni, stratificazioni di colonne che non sono proprio stati realizzati, cioè ci sono dei pezzi realizzati da queste band russe, c'è questa, ce n'è un'altra, ce ne sono due o tre, e poi ci sono dei pezzi invece che sono stati realizzati praticamente al montaggio, sovrapponendo dei tappeti sonori fatti al computer, degli effetti, e creando quindi in una forma di missaggio tipo DJ, diciamo, in qualche modo, creando queste atmosfere che però sono venute molto bene, perché in tanti punti sono molto ossessive e funzionano bene. Il film poi è secondo me molto, appunto, proprio parlando del discorso di linguaggio, quello è stato un film girato con le telecamerine, quindi voglio dire molto agile. E lo stile, se tu lo confronti con quello del Bosco, vedi proprio il tempo che passa, cioè molto più dinamico, montaggio molto più stretto, inquadrature anche molto più sporche, però comunque sempre una fotografia di interni fatta non a luce naturale, insomma, ma cercando di fare una fotografia, e quindi il risultato, a mio parere, è di un buon, passatemi il termine inglese, production value, cioè tradotto sarebbe valore di produzione, cioè nel senso il film sembra buona fattura. Buona fattura, grazie. Grazie. Sì, una buona fattura, e laddove, oppure detto anche più semplicemente, il film sembra più ricco di quello che in realtà è, cioè nel senso sembra che ci sia più produzione dentro, ecco, cioè valore di produzione. I famosi trucchi del mestiere, sì, proprio una questione artigianale in qualche modo. Film di cui siamo stati molto contenti, e dovevamo farne un altro, dovevamo fare un terzo progetto con questo produttore russo Viktor Bulankin, ma c'è stata di mezzo la guerra. Prima il Covid che ci ha bloccato, non siamo potuti volare, e poi dopo la guerra siamo fermi là. Speriamo che il Papa gli faccia fare la pace. E per il Papa può darsi. O Xi Jinping, o chi dei due, cioè sono gli unici due. Allora, Marco, avevi portato, cioè avevi selezionato, credo su invito dell'altro Marco, cinque tracce musicali. Per così, qual era l'idea iniziale di questi della selezione? Perché poi ce ne andremo a ascoltare almeno un'altra, e appunto, dato che ne stavi parlando adesso, qual è l'importanza del commento musicale alle scene del film e alla colonna sonora vera e propria, insomma? Certo, allora, beh, sicuramente la colonna sonora e non solo la musica, ma anche molto gli effetti sonori, specialmente nel genere, sono fondamentali, cioè molto spesso ti dà l'effetto di paura, l'effetto o anche l'effetto ansioso è dato moltissimo dal suono, cioè da quello che tu senti, anche faccio fatica a dirlo non in inglese, ma i salti di paura, i jump scares, cioè che sono quando fai saltare lo spettatore sulla sedia, ecco, i colpi sono spesso dei colpi sonori più che non visivi, cioè c'è uno stacco di inquadratura con un'inquadratura veloce, ma che è fortemente supportata da un effetto. Se tu togli l'effetto, non hai l'effetto sonoro, non hai più l'effetto di salto sulla sedia. Provate, certo, un film che abbia l'apparizione del mostro che ti fa saltare, togli il suono, ti fa saltare molto meno. E te probabilmente hai modo proprio di provarla sta cosa, perché vedrai sicuramente il film prima in fase di montaggio, certo, è privo di in fase di montaggio inventi tutte queste cose, quindi inventi il taglio di montaggio spesso in relazione all'effetto sonoro, cioè l'effetto sonoro addirittura guida, ma di pari passo, comunque va almeno di pari passo, qualche volta guida anche il guarda il montaggio. C'è la sala dove spesso proviamo noi, dove abbiamo anche girato il video di Mess, che è la sala dove suonava anche Morricone, che è dotata di schermo cinematografico, perché lì si montavano i film, anzi si facevano le colonne sonore seguendo le immagini. A volte sì, a volte le immagini, ma a volte anche tu però hai la colonna sonora, soprattutto se usi un brano che non è stato fatto per il film, ma è un brano, diciamo, preso da un repertorio, cioè, di qualsiasi genere, ecco che magari costruisci certi tagli su certi passaggi musicali, su certi cambi di note, per cui spesso è abbastanza biunivoca la relazione, cioè non è che sempre fai le immagini e poi ci metti la musica, spesso ci lavori addirittura insieme. Da prima che fosse inventato il cinema, che c'era all'epoca, c'era il cinema muto in cui si faceva il commento musicale col pianista. Infatti in una ora si fanno le sonorizzazioni sia del cinema muto sia di, ci stanno proprio dei gruppi che CSI, ma tanti che io stesso, perché mi sono ripreso, come sai, i giochetti che facciamo qui la notte quando non abbiamo voglia di avere ospiti e ce la passiamo qui in solitaria, tutta la vecchia serie di Spazio 1999, di cui cancelliamo, acca, tanto si trovano su YouTube tranquillamente, certo. Si può cancellare tutta la parte sonora, il commento originale e rifarcelo, reinventare, diciamo, il radiofonicamente il film, perché le immagini non ci sono più, ci sarà un doppio audio. Beh, le puoi raccontare le immagini. Le puoi raccontare a parole. Da questo fatto qui, insomma, è assolutamente. E facciamo presentare il prossimo brano. Allora sì, ci abbiamo. Non so, te li devo ricordare o quelli che t'ho segnalato io. Sì, esatto. Abbiamo, avevo messo in scaletta, vabbè, le musiche del bosco, poi avevo messo il vecchio di Murnau, la partitura del Nosferatu di Murnau, Tubular Bells dell'Esorcista di Mike Oldfield, e poi di italiano il Profondo Rosso e La Casa delle Finestre e La Casa delle Finestre che ridono. Sì, infatti. Beh, ecco perché tra l'altro Pupi Avati viene un po' dimenticato in favore di Dario Argento come classico dell'horror italiano, ma io direi che Avati ha fatto i film più inquietante. Zeder, La Casa delle Finestre che ridono, Zeder, ma soprattutto l'Arcano Incantatore. L'Arcano Incantatore è un grande film. È veramente una fiaba esoterica, estremamente delicata. Ma è anche splatter nel finale. Sì, sì, ma poi gioca sempre sul filo di lama, con quelle atmosfere tesissime, no? Nella biblioteca, la notte, questi esperimenti che si fanno tra il visto e non il visto, no? La famosa che poi era la famosa anche teoria di Spielberg dello squalo. Squalo devi far capire che c'è, ma non lo devi far mai vedere. Sì, certo, di non esagerare con i mostri, Sì, lo devi solo far intravedere. Allora io direi che da molto che avevi così preparato Amedeo Tommasi da La Casa delle Finestre che ridono, dalle Finestre che ridono del 1976, di sentircela insieme. Certo. Eccoci qua. Yeah. agli occhi della gente, portando a tutti le infezioni. I miei colori, sono dentro il mio braccio, i miei colori, me lo vedo, lontano, lontano vanno i miei colori, mi va lontano, mi possono andare lontano, ho bisogno di morire per loro, aprirsi dentro, oh Dio Signore, purificarsi, via, via. La purezza, la purezza, sono tutti i miei colori, sono tutti i miei colori, frio di nota, sì, ecco, mio Dio, ecco, ecco mio Dio, sento che sta morendo, ecco, muore, purificarsi, purificarsi. Minuti dopo la mezzanotte ritorniamo in onda, Radio Onda Rossa, 25 o'clock, www.ondarossa.info il sito per chi vuole ascoltare in streaming, perché non prima ci dicevano che insomma non si sentiva lo streaming, però insomma noi l'abbiamo provato, dovrebbe andare, adesso non sappiamo quali sono le motivazioni per cui c'erano problemi con lo streaming. 0649 17 50, non l'avevamo ricordato il numero di telefono della radio per chi volesse intervenire. Sappiamo che a quest'ora insomma girano parecchie persone strane, visto che girano persone strane, gli argomenti strane, sono equivoci. Io metterei un brano che ci sta proprio tutto, e... là tipo La Strange dei Doors, va bene, che è e poi mi direte che c'entra? C'entra perché è tratto dalla colonna sonora del film Ragazzi Perduti, che qualcuno mi dice ma con Andrea prima parlavamo, non è forse un po' patinato? È vero, è patinato, ma è un film figlio del suo tempo, cioè di quella fine degli anni Ottanta, dove il gusto era quello. Volendolo vedere oggi, persino il primo Nightmare, quello di Wes Craven, sembrerebbe patinato. Sì, può essere comunque di Wes Craven. Io direi di ricordare qui Il serpente e l'arcobaleno, bellissimo. Qui mi sembra, riguardo a Lost Boys, è sicuramente un buon film, e certamente questo pezzo di colonna sonora che tu proponi è interessante, per cui direi di ascoltarlo. E poi però ci parli invece dell'ambientazione, dell'importanza dell'ambientazione, di contestualizzare, no, un commento anche proprio. Vabbè, sì, ascoltiamo The Doors e poi sì, facciamo, sviluppiamo la domanda bene, perché sì, credo che Andrea possa dire qualcosa di più di quello che possiamo dire, non tanto per il mestiere che fa, ma anche per il tipo di vissuto che ci ha avuto. The Doors, quindi una visto di quei che classici, l'hai chiamata, uno di quei classici adattamenti, no? Cioè utilizzare qualcosa di estremamente conosciuto che però serve in particolare a quella scena, perché richiama tutta una serie di condizioni preliminari che possono essere utili alla narrazione stessa. Dai. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah. Niente, no, vabbè, il fuori onda con l'onda non funziona sempre. I ragionamenti, gli discorsi si interrompono. Do it yourself. Do it yourself. Diciamo che il caldo sta avendo il sopravvento su di noi, quindi non so ancora quanti minuti potremmo dire, tirare avanti. Però c'era un argomento che stava appunto nell'aria, cioè, ormai. Avevamo iniziato proprio dicendo che viviamo in un paese in cui ogni angolo, ogni strada, ogni giri una curva di una strada di montagna, come attraversi un vicoletto di una città storica e ti trovi già di fronte a un'inquadratura, una scenografia perfetta. Tu hai lavorato anche negli Stati Uniti, in un paese che ha un altro tipo di paesaggi rispetto al nostro. Anche lì c'è, parlavamo di ci sono cose di, molto, di molto cinematografiche. Tutto il western è nato grazie alla, poi con tutte le sue evoluzioni successive, però è nato grazie a questi ampi spazi. Noi il nostro lo giravamo al canale di Monterano. Certo, ah, certo. Sì, il discorso è che ci sono paesaggi molto scenici negli Stati Uniti, sicuramente, così come ci sono in qualunque parte del mondo. E a me è capitato di girare a Las Vegas, per esempio, che ha un suo gusto che è unico. La grande differenza rispetto all'Italia è che negli Stati Uniti per cambiare un paesaggio devi fare 100-150 miglia, cioè 200 chilometri. In Italia fai 10-20 chilometri, passi dal mare alla collina, lago, la foresta, attraversando, cioè, attraversando 2000 anni di storia, certo, quindi pure qualcosina di più, e hai la possibilità di avere diverse scenografie naturali a disposizione, sia proprio naturali in termini di natura, quindi mare, lago, foreste, sia storiche, cioè quindi ambientazioni storiche come cittadine, villaggi medievali, rovine romane. Certo, tutta questa ricchezza culturale scenica si trova in pochi, spesso nel giro di poche decine di chilometri, quindi questo rende molto più semplice il fatto che tu voglia girare delle cose diverse avendo da fare spostamenti minimi. Insomma, negli Stati Uniti, cioè, quando sei sulla costa della California, quella è per 500 km, non cambia, le case sono sempre quelle, le città sono sempre quelle, sono quelle che vediamo nei film americani. Poi per noi sono esotiche perché abbiamo tutta l'imprinting della cultura americana fin da sempre, insomma, no? Però sicuramente la ricchezza scenica dell'Italia, e direi anche un po' di tutta l'Europa, insomma, è tale per cui gli stessi americani appunto spesso girano in Italia o in Europa, ma così come anche in paesi dell'Asia. Insomma, io credo che il mondo sia tutto abbia dovunque degli spazi interessanti da filmare, delle immagini belle da catturare. In Italia ce n'è una particolare concentrazione, ecco. E ci puoi anche giocare mischiandole. Ce le puoi mischiare. Ne, certo, parlavamo prima, tutti a Roma cercano la famosa villa del bambino urlante sulla Cassia. Ragazzi, smettetela di cercare, perché non sta sulla Cassia, ma sta a Torino. A Torino, Torino città magica, capitale esoterica d'Italia e anche importante triangolo delle magie, insomma. Triangolo, sì, è uno dei vertici del triangolo magico europeo. Adesso poi qualcuno potrà spiegarlo in dettaglio. Insomma, comunque a Torino si trova la casa di Profondo Rosso. D'altra parte, anche se vogliamo tornare, prima citavamo le location del bosco, appunto, tanto per dire, appunto, esperienza personale, il film è tutto ambientato in questo paesino sulle Alpi, che in realtà si trova effettivamente nelle prealpi venete, nella zona della Lessinia, della Val di Lasi, che è non lontano dall'altipiano di Asiago. E gli esterni sono stati fatti tutti lì, la strada, l'avvicinamento, il paese e il bosco, ma poi invece la casetta in cui si svolge tutta la seconda parte del film sta in un boschetto qui a Filacciano, vicino a Roma, insomma, così come le scene sul mare dei racconti dello scrittore che erano lo short, il pre-film, come lo chiamavamo, girato prima del film, sono a Capocotta, vicino a Torvaianica. Quindi sempre dove qui. Oggi ci sono le spiagge nudisti? Dove c'è l'oasi naturista, sì, a Capocotta. Certo. E c'era anche allora, c'era già ai tempi. Abbiamo parlato dell'accostamento delle musiche e della semantica dello svolgimento poi del film, no? Invece quanto è per il regista di ispirazione un certo tipo di luogo che magari si trova a visitare per caso o gli viene suggerito, o comunque l'ispezione che fa prima, così il sopralluogo che fa prima può essere determinante? Può essere che ci siano dei luoghi che effettivamente ispirano delle storie, oppure delle storie ambientate in alcuni luoghi, non so, storie di fantasmi o storie o vicende storiche che sono poi legate a un luogo e che sono interessanti da sviluppare. Magari può capitare che uno pensa, non so, la storia di Amalassunta sul lago di Bolsena, che viene alla Martana viene assassinata sull'isola Martana dove era prigioniera. Allora uno, magari a me è capitato di andare con la barca a vedere la Martana, sì, perché sì, pure io, però non si può attraccare. Non si può attraccare perché no, per assurdo è privata, un'isola privata. Ma anche la Bisentina è privata. Beh, nei laghi può succedere, ma succede anche nel mare. Adesso i greci se li sono venduti, quindi, ai ricchi inglesi, sì, e tedeschi. Cioè, lì è iniziato il Medioevo, come noi lo intendiamo, su quell'isola. È assurdo che io non la possa andare a vedere. No, però si può chiedere dei permessi. Una volta l'anno. C'è modo, sì, in qualche modo. No, io non ci sono. Ha un costo esorbitante, mi sono informato io. Ti sei informato? Ecco, no, io tutto questo non mi sono informato, però ci sono girato attorno con la barca, quindi ho potuto vederla. Così come l'isola Bisentina, che era invece l'isola su cui gli Etruschi facevano la riunione annuale di tutti i re sacerdoti. E ci avevano l'ingresso al mondo sotterraneo, che pare appunto fosse sul Monticello. Il Mundus. Sì, sì, esatto. E, ecco, tutte queste sono ispirazioni un po' culturali, un po' che le leggi nei libri, un po' che poi vai a vedere i posti. E sicuramente tutto questo poi ti stimola magari l'idea di ambientarci qualcosa, una storia. E parlando di luoghi, ne introduco uno per introdurre poi la domanda, perché essendo un fan del Bosco 1 ti ho seguito spesso e volentieri, venendoti a trovare anche alcuni eventi che hai fatto a Viterbo, da altre parti, e ho visto che stavi lavorando a qualcosa in un posto a me molto caro, che è la necropoli etrusca di Norchia. Certo, Norchia. E ci porta quello che tutti aspettiamo da anni. Da anni, il famoso sequel del Bosco. Allora, il Bosco 1-2, allora, sì. Il prequel c'è sul libro. Cioè, quindi, nero su bianco. Avete, quello, la, cioè, quando arriva? Invece il Bosco 2 o 1-2 o Bosco 1 Next Generation, come è più probabile che sarà il titolo, è stato praticamente ormai girato completamente in parti, in momenti diversi. A Norchia, per esempio, abbiamo girato, ma abbiamo girato anche dei pezzetti a Istanbul, per cui voglio dire, sono stati girati pezzi un po' dovunque. Abbiamo girato in un Luna Park abbandonato vicino a Milano, a Consonno. Ci sono tante parti girate di questo progetto, perché ancora non è un film, che grazie anche all'apporto di Paola alla scrittura stiamo cercando di montare dandogli un senso compiuto a quello che è stato veramente un work in progress di almeno 10 anni, perché è da 10 anni che ormai una decina d'anni che ne giriamo dei pezzi senza arrivare mai, cioè senza io mai voler arrivare. Io vidi il primo screenshot che si festeggiava il 25ennale del Bosco 1 ed era quindi il 2013. Sì. quindi sono 10 anni, dai. Quindi sono almeno 10 anni, sì, ma forse anche qualcosa di più. Mi sa che è nel 2010 che abbiamo fatto le prime riprese, sempre spesso coinvolgendo fans che hanno fatto degli zombie. Abbiamo fatto anche tutta una zombie walk con anche tanta gente, fermando i fan, perché se avessi aperto le porte a tutti quelli che si sono offerti volontà, sì. Manco Ben Hur. No, infatti abbiamo avuto a che fare con alcuni gruppi che sono quelli che più o meno poi io ho conosciuto di persona. Non è che c'è stata nessuna volontà di escludere qualcuno a favore di qualcun altro, è stato un po' casualmente quelli che con cui sono venuto in contatto a qualche festival, che hanno detto no, ma noi ci saremo, verremo là, faremo là. Allora abbiamo scritto dei pezzi e li abbiamo messi insieme. Però appunto il difficile poi è stato comporre una linea narrativa complessiva, insomma, che poi alla fine dovrebbe essere questo appunto Bosco 1 Next Generation, che è appunto un Next Generation, non è veramente un sequel delle vicende del primo, riprende alcuni personaggi, ma non è un sequel come uno potrebbe aspettarselo. Nel documentario del Bosco 1, introducendo il Bosco 1-2, sì, tu dici al posso fare un po' di sì, al bene. Pupazzo. Ah no, al lì pupazzo. C'è il pezzo di ventriloquia. Sì, dove sì. Dici sarà un plagio. Sì, c'era il discorso, sì, certo, certo, ma questo allora. Ma non indovinerete mai. Ma non lo indovinerete mai, appunto, infatti è difficile da indovinare perché appunto ci sono in più delle parti dentro al film in cui, siccome io nelle varie esperienze a cui accennavo prima, tra l'altro ho fatto anche teatro come vi avevo detto, e in teatro oltre a fare delle regie ho fatto anche l'attore, nel senso del ventriloquo, perché io mi diletto di ventriloquia e sono anche abbastanza tecnicamente capace, e oltre ad aver fatto con la ventriloquia degli spettacoli nei casinò e anche abbiamo fatto anche delle cose a Las Vegas, ma sempre circa una decina d'anni fa, però poi in più, pur non avendo poi continuato a portare avanti questo tipo di attività, anche perché appunto mi sono un po' disinteressato di tutto l'aspetto live del teatro per tornare a fare i film sostanzialmente, però all'inizio appunto attorno al 2010, 12, 13 che c'era in atto questa attività, abbiamo fatto appunto dei spettacoli anche qui a Roma, e allora abbiamo inserito questa cosa nel Bosco 2, nel Next Generation, e ne è nato quella presentazione che tu hai visto, insomma. Questa cosa è poi stata sviluppata all'interno di diverse scene e adesso appunto la stiamo mettendo insieme, però stiamo trovando non delle difficoltà ma diverse possibilità di unire questo materiale, e ancora io non ho veramente deciso la forma che deve la forma forma finale. Sei come Gibbon, che ha lavorato 40 anni sul declino e caduta dell'impero romano d'Occidente e in punto di morte ancora non era contento, stava lavorando all'ennesima ristesura. Certo. Beh, sì. Speriamo di non arrivare a speriamo tanto. Di non arrivare a quel punto, infatti. No, e nel frattempo però appunto ho fatto gli altri film che dicevamo prima, lo Spelvin, i Soviet Zombie Invasion, il Questo Fear. Però rimane il tarlo di questo. Come? Rimane il tarlo. Sì, che deve comunque uscire a un certo rimane punto. Che a un certo punto questo materiale. Dai, noi ci proponiamo comunque per un eventuale organizzare comunque un'eventuale proiezione. Faremo un grande evento, sì, sicuramente. Sì, sì. Anche perché tantissima gente effettivamente lo aspetta con interesse, devo dire, di cui io ringrazio. C'ho gente che dice: ma tu che conosci Andrea? Ma quando esce? Qualcuno ha detto pure. Ma puoi mettere, ha chiesto una raccomandazione, no? Per fare la compagnia, digli che non voglio neanche il cestino del pranzo, mi porto il panino da casa. Sì, no, però in questa maniera appunto diverse parti sono state fatte, un po' perché uno dice no, ma veniamo, lo facciamo, ci piace, ci... Forse sei troppo democratico, il problema è questo. Allora va bene, c'è chi c'è, per carità, non voglio negare a nessuno il piacere di essere nel Bosco 2 o nel Bosco Next Generation, ma il punto è che adesso il materiale è parecchio ed è importante riuscire a conglobarlo in una cosa che abbia un senso narrativo e anche una sua piacevolezza, perché diventa anche difficile appunto confrontarsi con il Bosco 1, con tutto quello che è diventato nel tempo, e riuscire a fare una cosa che non sia un sequel pedissequo, che non è, anche perché proprio non è nato così, essendo nato per Flash nel corso degli anni, come work in progress. Com'è che si dice in italiano? Lavoro in corso. Lavoro in corso, ecco. Ma forse sai, l'errore è sempre quello di confrontarsi comunque con i propri 30 anni. Quello, cioè, non va mai fatto. Non va fatto, no. È l'errore principale, perché a 30 anni c'è un'altra capoccia, un'altra attività cerebrale, cioè, insomma, un'altra frequenza. Quindi verrà un film, speriamo, non maturo, perché... No, maturo assolutamente no. Acerbo. Bisogna coltivare il proprio Peter Pan. Esatto. Certo. Acerbo, ma dei propri 60 anni, insomma. Ecco, magari. Esatto. Questo è, quindi vi auguro che tutti, che saremo ancora vostri ospiti con queste nuove cose. E non queste... vediamo l'ora. Sai, grazie, io direi di salutarci con una voce femminile, perché ho voglia di sentire una voce femminile. Sì. La che però, bella e potente. Che però era quella che non dobbiamo dire? No, anzi, no, aspetta, no, fermati. Visto che l'altra volta nessuno ha indovinato, l'altra volta nessuno ha indovinato. Rilanciamo il concorsone. Perché poi noi siamo ascoltati più in podcast che in diretta a quest'ora di notte, d'estate, la gente. E nessuno l'ha indovinato. Esatto. Quindi, nessuno ha indovinato. Chi lo indovina sto brano? È inutile che lo cercate su degli internet. Esperti e delle esperte, Martis e Spider, cioè. È inutile che lo cercate su internet, perché non sta neanche sul Davinò, l'ho scelto apposta. Esatto. E vi do l'indizio: è uscito prima il sequel del film originale. E l'abbiamo detto, quindi, anche l'altra volta. Quindi chi lo vince? Però non ascoltiamo quella. No, ascoltiamo quella. Purtroppo quella che volevo io, magari la mettiamo per salutarci, cioè in sottofondo. Va bene. Chi vince il disco dei V38? L'altra volta era l'ingresso al concerto. Con Fatur. Stavolta invece il concerto con Fatur è passato. Il disco del trentennale, si parlava dei 30 anni, Il Mondo Nuovo. E non dovevi sentire questa, ma non vi diciamo che cos'è. Questa. Diciamo sempre chi era, dovete indovinare l'autrice, il titolo del brano, il film. Soprattutto il film. Poi se volete essere veramente fighi, anche la sequenza. Sì, vabbè, si è arrivato a tanto. In palio Il Mondo Nuovo dei P38 Punk, che ormai è vecchio, anche sì, per quello, ormai è un anno, sì. Non è un premione, però insomma. Vabbè. Quello ci abbiamo, insomma, come. Meglio che una cena con Crosetto. Certo. Allora dai, vogliamo cominciare a darci un taglio? Ci abbiamo delle cose urgentissime da dire che proprio non riusciamo, che proprio stasera dobbiamo dire? Volete la pace o i condizionatori? I condizionatori. Tutte e due. Va bene, va. Io direi che ci aggiorniamo. Ci aggiorniamo, quindi 26 di luglio, diciamo. 27. Solo un'ora di sforamento? 27. No, più di un'ora. 27 di luglio, sì. Due ore e mezza. Quant'è che stiamo... No, dalle 23, guarda, alla fine con Elettro, insomma, fra una cosa e un'altra. Abbiamo sforato di un'ora. Due ore a 40 gradi, insomma. Con ventilatori che valgono 4. Con ventilatori che mandano l'aria a 40 gradi. Ovviamente. Sì, tra l'altro ventilatori che sembrano tipo dei Fisher Price. Sì. No, c'è quello bellissimo, pare della Chicco invece, quello dei bambini, dei neonati. Sì, sembra C3PO. Sì. Ecco, il Commodore 64 dei ventilatori. No, il Vic 20 dei ventilatori. Va bene, noi allora ringraziamo innanzitutto Andrea, Paola e Marco che ci hanno fatto la trasmissione questa sera, la cosa più bella che ci capita quando viene qualcuno e ci fa la trasmissione, non dobbiamo preparare nulla. Sì, a una certa tanto manco più di lavorare, capito qual è il problema? Anche sulle cose piacevoli che uno fa da tanti anni. Ringraziamo anche perché poi in realtà è stata veramente una missione interessante, bella, di spunti, una chiacchierata che vorremmo... Prossimo ospite è Waldo Mastelloni. Non verrà, è bannato. Ma non perché... Ma ha dato tanto al cinema italiano. Ma non perché... Per i picca a te. Non so in cosa, ma gli ha dato tanto. Ma solo per i picca a te. Cioè, è solo per quello. Al limite, guarda, per me potrebbe pure, ma per i picca a te non lo... È bannato. Quindi, vabbè, ci siamo, dai. Buonanotte. Il nostro saluto importante va a tutte e tutti coloro che ci ascoltano in condizioni di libertà personale. No, devo mettere la sigla, capirai. Carcere, la dinanza clandestinità, domiciliari. lo so, arresti domiciliari, famigerati, centri di detenzione per migranti, tutta questa robaccia che comunque ci reclude e funziona per far funzionare la repressione, quindi tutto lo stato di cose che ci attanaglia. Noi cerchiamo sempre di fuggire, lo facciamo appunto come questa sera con lo splatter, con l'horror e con tutti i generi musicali, cinematografici e liminari che comunque ci permettono di spaziare, di andare oltre, di superare i margini della nostra molte volte cruda quotidianità fatta pure appunto, diciamo, prima di guerre, di pandemie e di impicci condizionatori. Quindi Palinsesto alla radio finisce qui, ricomincia domani mattina, non ve lo sto a raccontare questa sera, tanto stiamo a luglio, comunque lo sapete, rassegna stampa, la trasmissione sul cinema della radio alle 14. Non so se Andrea... Gli abbiamo rubato il lavoro al buon Federico. E bella a tutte, ci risentiamo mercoledì prossimo, vedremo stavolta di coinvolgere, stiamo cercando di coinvolgere il fantasma per una trasmissione di musichette lisergiche, psichedelia e quant'altro. Grazie a voi, grazie di tutto. Grazie Andrea, grazie a Paola. Ciao. Bella, dai. Brother.